Un anno fa sono stati pubblicati i risultati di uno studio che aveva per oggetto le tibie di 300 ragazzi americani di 12 anni. Tramite spettroscopia a fluorescenza si è potuto misurare la quantità di piombo presente nell'osso e si è notato che ai picchi maggiori corrispondevano a comportamenti aggressivi o detti generalmente devianti da parte di chi su quell'osso camminava, correva o scappava a marachella compiuta. In pratica veniva confermata la vecchia tesi che sosteneva un rapporto diretto fra avvelenamento da piombo e delinquenza. Soprattutto a quanto pare se l'avvelenamento avviene fra i 2 e i 3 anni di età, allorquando sarebbe concomitante con un importante sviluppo del sistema nervoso centrale. Nel 1995 si è venuto a sapere che alcuni depressi erano trattati con la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva. Ne ricavavano un buon mal di testa, ma in compenso la depressione passava. Un'aspirina poi faceva passare anche il mal di testa prima che conseguenzialmente tornasse per l'appunto la depressione. Applicando campi elettromagnetici alla zona della corteccia prefrontale sinistra, le cellule nervose del depresso, a quanto si diceva, tornavano toniche e garrule come gazzelle in primavera. Nel 1990, tanto per continuare a citare da un campionario sempre più ricco, nel 1990 erano circolate notizie su di un paio di altre ricerche. Una diceva che era stata individuata una variante di una molecola normalmente presente nel cervello umano che passando ereditariamente di padre in figlio li rendeva sicure vittime dell'alcolismo. L'altra ricerca diceva che analizzando 3 generazioni di membri di 2 famiglie, una inglese e l'altra canadese, era stato scoperto un gene responsabile del fatto che costoro non azzeccassero mai nel parlare la concordanza del numero, ovvero dicessero 2 tigre, 1 gatti e così via, non potendo concepire regole che concernessero il singolare e il plurale. Tutto ciò per dire che nella ricerca di cause fisiche che governano i comportamenti umani, da un po' di tempo in qua si va particolarmente per il sottile. Atomi, molecole, pacchetti d'onda, sfilatini di DNA o singoli geni, presto sarà la volta di subparticelle, c'è già chi come Penrose tira in ballo la fisica quantistica per spiegare l'attività mentale, o meglio per spiegare che non sa spiegarla. Tuttavia, da un punto di vista strettamente metodologico, non mi sembrano procedure diverse rispetto a quella di Sant'Agostino, allorché affermava che i porri accendono la collera, oppure che i cavoli generano malinconia alla faccia delle moderne diete antitumorali. Cavoli e quark, entro certi limiti, dovrebbero vantare il medesimo statuto in grazia del quale essere considerati di questo mondo con ugual diritto. Può stupirsi soltanto l'incauto, allora se l'avveduto avvocato fa salva la responsabilità del proprio cliente e accusa la truce creatina chinasi. Il fatto è noto e recente. Allora, un signore ha ucciso a rivoltellate una signora il 4 maggio del 1995 nel parco di Monza, poi si è consegnato alla polizia. Rispettandone la tristissima e tutta sua specificità, sembra che si possa classificare fra le storie d'amore andate a male. Condannato una prima volta a 17 anni di carcere, in appello i difensori hanno sostenuto che in quel momento, nel momento in cui ha sparato, il loro assistito temporaneamente non era in grado né di intendere né di volere. La prova di ciò sarebbe a portata di mano approfittando di una circostanza casuale. Proprio in quel giorno il signore in questione si era sottoposto ad esami del sangue in vista di un prossimo intervento chirurgico al ginocchio e da quegli esami risultavano altissimi i valori relativi alla creatina chinasi. Da quanto ne so io, la creatina chinasi è un enzima coinvolto nella contrazione muscolare. Credo che nel tessuto muscolare ce ne sia poco e che ogni tanto, per sforzi brevi e violenti, si unisca all'adenosintrifosfato, liberando energia. Credo anche che faccia parte della grande famiglia delle transferasi, che catalizzano reazioni, per l'appunto, come dice il nome, di trasferimento di un gruppo atomico da un substrato all'altro. Ogni tanto, dunque, questo enzima dovrebbe far bella mostra di sé nel sangue degli atleti, degli sportivi in genere, che dopo un po' dovrebbero liberarsene con la pipì. Il signore in questione né faceva il sollevatore di pesi nel centometrista, bensì l'insegnante elementare, ma ciò potrebbe non voler dire granché. Del suo sangue, come di quello della poveretta che ha ammazzato, nessuno può star lì a sindacare. Forse la comunità scientifica non ha ancora le idee chiare circa il rapporto fra creatina chinasi e tendenze a portarsi dietro il revolver agli incontri amorosi, nonché a schiacciare ripetutamente il grilletto in direzione dell'amata, ma ho l'impressione che il problema per la società tutta in cui si svolge questa vicenda non sia lì. Gli avvocati difensori avrebbero potuto chiedere la verifica della quantità di piombo contenuta nella sua tibia e il problema, in quanto tale, sarebbe rimasto identico. Ogni processo è prima di tutto ideologico. C'è una scelta di valori che lo precede e lo governa fino alla sua conclusione. Questa scelta di valori investe la concezione del rapporto di causa e di effetto allorquando al posto del primo termine c'è una persona. Per lo più, fino ad oggi, l'apparato giudiziale è stato restio a scendere oltre l'unità della persona e ad ammettere i suoi costituenti. In certi casi alcuni costituenti sono stati ammessi per diminuire la responsabilità della persona, per esempio riconoscendo l'azione di droghe e altri agenti psicotropi. In altri casi si fa resistenza, ma magari ciò che oggi non è ratificato come agente attivo al posto del cosiddetto libero arbitrio umano lo sarà domani. Una soluzione empirica del problema ovviamente non esiste, perché siamo noi e solo noi che attribuiamo intenzionalità a destra e a manca. Le difficoltà che oggi abbiamo a proposito dell'uomo le abbiamo sempre avute a proposito dell'animale, le avremo domani a proposito dei computer e degli altri marchingegni artificiali che dovranno somigliarci. Tuttavia, la magistratura, dopo essersi arrovellata fra un valore e l'altro, qualche pesce deve pur prenderlo in considerazione di quel minimo di funzionalità che è chiamata ad assolvere nel suo rapporto con il corpo sociale. Se Sant'Agostino avesse ricevuto un pugnone sul naso, dubito che, prima di chiamare gli armigeri, avesse chiesto al suo aggressore se per caso avesse fatto una scorpacciata di porri. Quando Caino ha ammazzato Abele, d'accordo che erano altri tempi, il Signore non ci ha messo un granché. Gli ha detto, ora tu sei maledetto e sarai cacciato dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue del tuo fratello dalla tua mano. Niente analisi del DNA, niente esami del sangue e a pensarci bene nemmeno il difensore d'ufficio. Quel processo andrebbe rifatto. Gli avvocati non hanno mai goduto di buona stampa, eh? Allorché Anatole France nella Rivolta degli Angeli deve sunteggiare in breve la genesi di un suo personaggio, un tal Maurizio, dice che a 25 anni aveva la saggezza dell'ecclesiaste. Pensando che nessun utile deriva all'uomo dai fastidi che gli si prende sotto la cappa del cielo, non si procurava mai noie né mali. Sin dalla prima fanciullezza, questo figlio di famiglia si studiava di evitare ogni applicazione mentale. E così, rimanendo estraneo all'insegnamento delle scuole, era diventato dottore in diritto ed avvocato alla Corte d'Appello. Non me ne vorranno gli amici avvocati se ricordo che prima di Anatole France Honoré de Balzac era stato forse meno caustico ma anche più critico. Nel Colonnello Chabert, che è un breve romanzo scritto nel 1832, di cui recentemente è stato anche tratto un film con Depardieu, per ben due volte Balzac costruisce un'illuminante doppia analogia che la dice lunga sul dramma della professione forense. Prima descrive gli avvocati come persone che entrano dappertutto senza temere di nulla, come i sacerdoti e i medici. Poi afferma che nella società del suo tempo ci sono tre persone, il prete, il medico e l'avvocato, che non possono stimare gli uomini, aggiungendo che tutte e tre sono vestiti di nero, forse perché portano il lutto di tutte le virtù, di tutte le illusioni. Ritenendo forse di poterselo permettere in virtù di questa doppia analogia, il Papa ha recentemente redarguito gli avvocati, invitandoli severamente a svolgere la loro professione solo in nome della verità, difendendo in altre parole soltanto imputati innocenti. Dopo avergli chiesto quale fosse il criterio di questa verità e chi mai ne fosse il depositario fortunato, Balzac gli avrebbe risposto che allora era d'obbligo morale invitare i medici anche a curare soltanto i sani. L'intervento del Papa comunque deve aver rigirato il coltello nella piaga e non ha portato granché di buono all'omicida del parco di Monza. L'interpretazione del suo avvocato relativa al rapporto fra rivoltellate e creatina chinasi nel sangue non ha convinto i giudici della Corte d'Appello. I quattro anni in meno che gli hanno dato hanno preferito farli dipendere dall'attenuante di una provocazione che, volendo, non la si nega a nessuno, e non dalla biochimica. No, non dalla biochimica. Che, tuttavia, con il gran rincrescimento del condannato, spadroneggerà nei processi futuri. Thank you.